chissà se qualcuno si ricorda di Topazio, la telenovela, quella con Grecia Colmenares. Così piccola e fragile, era De Drupi sta sigla. Potrebbe sembrare una nostalgica deriva anni Ottanta, in realtà non è proprio così. È che il fatto è che io sono in terapia, psicoterapia. Secondo me tutti dovrebbero andare in terapia. Comunque, al di là di questo, io credo che quando arriverò al termine del mio percorso, che non so quando sarà perché non potendomi permettere una terapia privata io vado al DSM, che è una struttura meravigliosa, piena di persone stupende, dove non si paga niente, ma dove i dolori di una giovane Werther come me passano in ultimissimo piano rispetto all'abisso del disagio da periferia romana. E quindi ti danno un appuntamento al mese, mese e mezzo, una terapia con calma, alla romana. Insomma, quando io e la mia materna e sussurrante dottoressa, perché la mia dottoressa non parla, la mia dottoressa sussurra: salve Chiara, come va oggi? Dottoressa, le dirò un po' meglio, però vabbè che non pago, ma se alzasse un pochino la voce. Insomma, quando io e la mia materna e sussurrante dottoressa saremo giunti al dunque, quando avremo scandagliato tutti i meandri del rimosso e del controrimosso, beh, io sono certa che lì, tra l'io, il superego, l'inconscio e il subconscio, lì ci sarà Topazio. Perché? Perché intanto Topazio era bellissima, con questi capelli lunghi e lisci, meravigliosi, il sorriso mite, l'aspetto delicato, era stupenda senza sapere di esserlo, e non sapeva di esserlo perché era cieca. Era cieca, ma cieca dalla nascita proprio, Di più, era anche orfana, o meglio, peggio, cresce pensando di essere orfana, ma in realtà è la figlia dei ricchi, solo che lei non lo saprà mai. Ora questa Topazio viene trascinata in giro come un pacco postale da una serie di uomini che la maltrattano. Uno addirittura la violenta dopo averla fatta svenire per averle detto che era deforme. Cioè, lui le dice: so deforme, lei non regge il colpo, sviene, lui se la tromba, naturalmente la mette incinta, allora lei corre dal marito: sono incinta, no, non posso accettare il figlio della colpa, devi abortire. Ma io non posso abortire, sono Topazio. Allora il marito la ripudia, la maltrattano tutti, non riesce a guarire. E però lei è felice. Cieca, orfana, povera, messa incinta da uno storpio, ripudiata dal marito, e comunque sorride. Ma che cazzo c'hai da ridere, Topà? Ma come puoi essere felice? Non è il caso che tu sia felice, non ci sono le condizioni di questa felicità. A noi ci hanno rovinato questa storia della felicità a tutti i costi, la felicità nonostante tutto. Pollyanna, questa è bellissima. Pollyanna ha un babbo missionario che perderà molto presto, naturalmente. Prima di abbandonare il mondo dei vivi e lasciarla alla sua sorte, il babbo ha il tempo di insegnarle un gioco. Il gioco della felicità, che consiste nel trovare il lato positivo in ogni vicenda, anche la più sciagurata. Ora, i due vivono in India un'esistenza a deprivazioni. Finalmente un giorno riescono a racimolare un gruzzoletto per ordinare una cassa di giocattoli per la cara Pollyanna, che non ha mai avuto niente. Il giorno tanto atteso arriva, Pollyanna corre alla porta, corre alla cassa, la apre e dentro ci trova uno stock di stampelle, le grucce, quelle per chi se fa male alle gambe. No, Pollyanna, non devi essere triste. Facciamo il gioco della felicità. Capiamo quale potrebbe essere il lato positivo nel fatto che ti siano arrivate le stampelle. E che cosa concludono le due menti geniali dopo essersi scervellate per ore? Che il lato positivo del fatto che le siano arrivate le stampelle sia che le stampelle non le servano, perché lei cammina bene. Cioè, non sono le stampelle a essere inadeguate per Pollyanna, e Pollyanna che è assurdamente inadeguata alle stampelle. Infatti ci pensa il fato qualche anno dopo a farle perdere l'uso di entrambe le gambe, così per farla ricredere. Ma lei comunque è contenta, perché poteva andarle peggio, poteva non avere le stampelle. Ma ci avete mai pensato di quanto tutto questo si sia insinuato nelle menti di noi bimbe degli anni 80 e 90? Cenerentola, orfana di madre, abbandonata dal padre in balia di 3 arpie che la seviziano e la schiavizzano nella sua stessa casa, costretta nella cenere dalla mattina alla sera E però lei è felice. Ma felice di che? Stai a parlare coi topi? Ma chi al mondo sarebbe mai felice di parlare coi topi? Di avere dei topi per amici? Cioè, io vedo un topo che mi cammina per casa e gli cucio una magliettina. Ma no! Ma io gli spacco la testa con la scopa, gli metto le polpette avvelenate e finché non so certa che il topo è sepolto nel mio giardino, io non dormo! Ribella, dice Nerea, perché oggigiorno le fate non esistono. Cioè, se oggi vedi una fata, vuol dire che ti sei calato un allucinogeno. Oppure che ti sei leccato un acido da una parete. Che ne so, stai lì nella cenere, le senti arrivare, no? Allora pigli un pugno di cenere, straglielo, sbatti in faccia alla madrigna, poi pigli Lucifero, quel gatto de merda, lo fai rodeare sopra la testa, glielo sbatti in faccia una sorellastra, a quell'altra gliela incarcio, le atterri, le pigli a sciavattate, altro che scarpetta, gliele tiri le ciabatte, perché se c'hai l'energia per pulire casa, ce l'hai pure per menalle. Ma come potevamo noi crescere senza sentirci in colpa per il fatto che non ci accontentiamo? Come potevamo noi crescere senza questo senso di abnegazione e di sacrificio verso tutto e tutti? Allora ho pensato una cosa. Secondo me il gioco della felicità è una cazzata. Perché sapete come sarebbe oggi? Sarebbe: allora signorina, lei mi hai assunta, è contenta? Beh, sì, grazie. Le diamo 3 euro l'ora, niente diaria, no contributi, niente ferie pagate e naturalmente se resta incinta è licenziata. Però scusi, alt! Gioco della felicità. Vabbè, almeno il lavoro, desti tempi. Ah, bella zinnona, ma perché non ci fa fan giro su se belle bocce? Oh, ma come te pre... Alt! Gioco della felicità. Vabbè, devo ringraziare che non son cesso? Quello tu lo devi lasciare, perché ti limita in tutto, ti sta col fiato sul collo ed è pure violento. Sai che mi sa che c'hai ragione. Alt! Gioco della felicità. Vabbè, almeno... non spaccia, non va mignotte? Il gioco della felicità è una cazzata. O vogliamo fare la fine di Topazio, eh? Io non la voglio fare la fine di Topazio. Piccola, fragile. Cosa no. Le evocano queste parole, Chiara? Dottoressa, mi scusi, ma io non la sento, cioè non la sento proprio. Sì, mi scusi. Se dovesse per associazione di idee proseguire la catena, piccola, fragile, poi cos'altro? Beh, delicata, dipendente, bisognosa di protezione, sottomessa. Sottomessa? Sottomessa? Ma lei ce l'ha una via di mezzo? Comunque sì, sottomessa. Bene. Fermiamoci su questo concetto. Sottomessa. Che cosa le viene in mente? L'altro giorno stavo facendo una lezione di teatro a una classe prima media e una seconda media. Alla mia domanda qual è il vostro libro preferito, quello che proprio leggereste e rileggereste mille e mille volte, si alza una mano. È una fanciulla di prima media, però già grande, già truccata, molto bella. Mi dice 50 sfumature di grigio. Dico, come? Scusa? 50 sfumature di grigio, carcola, ho letto il libro, ho visto il film, è il mio libro preferito, Prussere. A 11 anni? Io a 11 anni, a parte che ero una cicciottella con gli occhiali, una secchiona, comunque io leggevo L'isola del tesoro, leggevo La storia infinita, il libro Cuore, tutto al più Stephen King, però di nascosto, col cuore in tumulto. E invece lei a 11 anni legge di contratti sessuali, pratiche sadomaso, sottomissione femminile. Allora ho pensato, fammi leggere sta roba. Ed eccolo qua, mi sono trovata davanti a 50 sfumature di grigio. Cito direttamente dal New York Times. 50 sfumature è il romanzo erotico che ha elettrizzato tutte le donne d'America. Hanno diffuso il verbo su Facebook, in palestra, con gli amanti, con i mariti. Il The Entertainment invece ci dice scandaloso, bollente, il bestseller di cui non si può smettere di parlare. Ma la perla ci arriva dal Guardian, quello che ogni donna vuole. Ovviamente. E direttamente dalla quarta di copertina, questo libro vi ossessionerà, vi possiederà e starà con voi per sempre. Me coglioni. Facendo qualche ricerca qua e là ho scoperto che 50 sfumature è assurdo alla classifica dei libri più venduti di sempre, superando i 100 milioni di copie, ed è in ottima compagnia. Cioè c'è roba tipo, vabbè, ovviamente la Bibbia, poi c'è il Piccolo Principe, c'è Don Chisciotte, c'è lo Hobbit, tutta la saga di Harry Potter e 50 sfumature. Allora ho pensato, beh, per aver venduto così tanto, questo libro deve essere una sorta di capolavoro della letteratura. Cosa che ho escluso quasi subito, perché sono 548 pagine. Ma nelle scene di sesso, che costituiscono solo una parte della vicenda, per il resto più simile a un Harmony di quarta categoria, in cui non si capisce questi che devono fare, l'autrice utilizza più volte a pagina il verbo dremere, variamente coniugato, tipo io dremo, lui dreme, noi dremiamo insieme, non riesco a smettere di dremere, a volte, ma non sempre, alternato al verbo mugolare, io mugolo, lui mugola, mugoliamo. Il participio presente ardente, riferito sempre a sguardo, labbra, mani. Il participio presente esigente, riferito sempre a sguardo, labbra. Vari participi presenti e aggettivi veramente inconsueti per un romanzo erotico, come erotico, sensuale, seducente, provocante e, direttamente dai libri della Parodi, delizioso. Vari costrutti con la parola Dio, oddio, oh mio Dio, Dio mio, povero Dio. Naturalmente ti si spregano i ti prego, io, a, e, u. La frase hai un odore così buono, almeno 40 volte c'è sta frase in tutto il libro. Lei la dice a lui, lui la dice a lei, se la dicono anche insieme. La metafora, pressoché l'unica metafora ardita per indicare l'orgasmo femminile, è esplodo in mille pezzi. E a indicare la vagina, vari sinonimi edulcorati, tipo basso, profondo, ventre e dulcis in fundo la parola lì, in corsivo, lì, così, vago, un avverbio de luogo, dove ci vediamo lì. Quindi, avendo escluso l'ipotesi del capolavoro, ho pensato, beh, ma allora in questo libro ci devono essere milioni di risposte a milioni di domande sul sesso. Ed ero curiosissima, quindi mi sono andata tutta veloce a cercare la prima scopata, sono andata tutta veloce che volevo trovare la prima scopata, cioè, ansiosa, poi adesso voglio avere la prima scopata, voglio avere la scopata a pagina 129. Cioè, prima non succede niente. Già una che si chiama Anastasia, detta Ana. Ma un nome e un destino, ma che altro mi vuoi raccontare? Te chiami Ana? Che questa Ana sia vergine a 25 anni o giù di lì è praticamente fantascienza. Che per una sorta di coincidenza si trovi in presenza de stadone strabello, straaffascinante, straricco, che come se non bastasse rimane folgorato dalla sciatta studentessa verginella. Beh, era veramente troppo. Allora ho fatto avanti veloce, ho beccato il primo gemo, tac, ed ecco la prima scopata. Ora, lui le ha già proposto il famigerato contratto di sottomissione sessuale, ma lei non ha ancora deciso se accettare, però nel dubbio ha pensato di dargliela, così dico, me tengo a paro, ecco. E credo, perché io mica l'ho letto il pre. Comunque, allora, attenzione, perché il libro è tutto in prima persona, quindi silenzio. Parla Ana. È bello da mozzare il fiato. Si toglie le Converse e si china per sfilarsi i calzini uno alla volta. Penso all'ultima volta che ho visto un uomo sfilarsi i calzini. No, niente di seducente. Immagino che tu non prenda la pillola, Anastasia. Ah, che erotismo, complimenti. Lo sapevo. Apre un cassetto e tira fuori una scatola di preservativi. Bisogna sempre essere pronti. Ecco, se un uomo mi dicesse una frase del genere, io penso che ritroverei la mia libido sul divano con una coperta e la camomilla. Ma io sono io e io ce li ho appresso i preservativi. Si avvicina piano, occhio agli aggettivi, sicuro di sé, sensuale, con lo sguardo ardente. Il mio cuore comincia a battere, prima era morta evidentemente, il sangue mi ribolle nelle vene, un desiderio cocente e intenso mi invade il ventre. E calla, è così seducente. Immagini quello che sto per farti? Beh, qualcosa di seducente, vogliamo sperare. I muscoli della parte più profonda e oscura di me fremono, provocandomi una sensazione deliziosa. Le sue labbra sono esigenti, lente, decise e plasmano le mie. Mi afferra la coda, la scioglie e trasale, mentre i capelli mi cadono sulle spalle. Trasale? Tipo... Adoro le brune, mormora e mi infila le mani nei capelli stringendomi i lati della testa. Il suo bacio è esigente, le sue labbra forzano le mie. Gemendo, cerco la sua lingua con la mia. Li ansimo in bocca. Si stacca da me e all'improvviso cade in ginocchio. Boh! Ah, gemo! Si china in avanti e mi sfiora con il naso la sommità tra le cosce. Lo sento. Lì, in corsivo naturalmente. Hai un odore così buono. Mormora e quasi mi vengono le convulsioni. Mi afferra un piede e mi slaccia la scarpa. Poi me la sfila, seguita dalla calza. C'è una fissazione questa per i calzini, è evidente. Lui mi solleva il tallone e passa il pollice sul collo del piede. È quasi doloroso, ma il movimento mi si riverbera nell'inguine. Ah, ma è un riflessologo lui, ecco. Passa la lingua sul collo del piede, poi i denti, cioè gli sta a mordere il piede, ma che c'è di erotico? Dio mio, gemo, come posso sentirlo? Lì ricado sul letto, mugolando. Sei bellissima, Anastasia Steele. Ecco, lui la chiama per nome e cognome per paura di dimenticarsi chi è. È così seducente. Fammi vedere come ti tocchi. Cosa? Non essere timida, Ana. Fammi vedere. No, non lo faccio. Bene, vedremo che cosa potremo fare al riguardo. Ma che è? Ma che devi fare? Ma che frase è? Ma che sei, un impiegato dell'assicurazione? Mi devi sbrigare una pratica? Cioè, io veramente non... Vabbè. Ora, scusate, invece no, non è ora, ma è ora, incombe su di me, mentre mi dimeno dalla voglia. Stai ferma. Oh, non riesco a stare ferma. Come faccio a non muovermi? Mi sto contorcendo sotto di lui. Dovremo trovare il modo di tenerti ferma, piccola. Beh, forse un'anestesia, forse quello può servire. Sento la pelle rovente, sono in fiamme, muoio di caldo, di freddo, mi aggrappo al lenzuolo, c'ha l'influenza intestinale, aiutate. Là, cioè, mi avvolge i seni con le mani. Le tue misure si adattano perfettamente alle mie mani, Anastasia. Poi infila l'indice nella coppa del reggiseno e lo scosta piano, liberandomi un seno. Fa la stessa cosa con l'altro. I miei seni si gonfiano e i capezzoli si induriscono sotto il suo sguardo insistente. Bzzz-pin! Non male, mormora. Non male. Ma vattene un po' a morire ammazzato, gli avrei detto io. Ma no, lei no, a lei i capezzoli si induriscono ancora di più. Soffia piano su un seno. Mentre la sua mano viaggia fino all'altro e mi pizzica e mi morde. Vediamo se riesco a farti venire così. Ah, no, ma vai, prova, sì. Io sto qui. Oh, ti prego, supplico, e rovescio la testa all'indietro, la bocca aperta, le gambe rigide e morta finalmente. Chiude i denti sul mio capezzolo, mentre con il pollice e l'indice tira forte l'altro. Io mi sgretolo tra le sue mani, il mio corpo freme ed esplode in mille pezzi. Lui mi bacia sulla bocca, assorbendo con la lingua le mie grida. Ora capisco di cosa parlano tutti. E certo, il mondo è pieno di gente che parla di orgasmi raggiunti con l'imposizione delle dita sui capezzoli. Infila un dito dentro di me, facendomi urlare. Mi avvolge il clitoride. No, aspetta. Mi avvolge. Ma come? Ma da dove? Aspetta, dal basso? Da di là? Da di? Boh. Gemo. All'improvviso poi lui si denuda finalmente, facendole mostrare, diciamo mostrandole la sua virilità, e lei giustamente si preoccupa, dice: accidenti, ma riuscirà a entrare? Non preoccuparti, anche tu stai diventando più larga. Ho capito, allora lui è Iron Man e misura le cose guardandole. Si china, gli occhi fissi nei miei, lo sguardo ardente. Sto per fotterti, Miss Steele. Ah, grazie, grazie mille dell'informazione. Senza pietà, e si avventa dentro di me. Ah! Grido, c'è proprio scritto A-A-H. Sei così stretta. E basta, e sei larga, e sei stretta, e mi piacciono le more. Le tue misure si adattano perfettamente alle mie. Ma non puoi fartele tacere invece di trattarla come Kit che dà all'autista i dati ambientali. Indietreggia con mirabile lentezza. Ah, mirabile! Tutto a un tratto siamo arrivati nel Medioevo, che meraviglia! Poi mi dice, ancora, con voce roca. Io, sì, gemo, e lui torna alla carica. Ancora e ancora. Vieni per me, Ana, dice, e le sue parole mi sciolgono, mi fanno esplodere sotto il suo peso. Quando viene, lui urla il mio nome. Anastasia! Basta. Ecco, questa era la prima scopata di Anastasia Steele. Sesso con pochi sinonimi e non troppa poesia. Lui non la domina ancora del tutto, però regge il gioco e lo guida. Aspetta, ma forse è per questo che questo libro ha venduto così tanto? Perché le donne vogliono un uomo che guidi il gioco, almeno a letto? E soprattutto, perché ci sto ancora pensando? Essere di proprietà di un uomo, la sottomissione contrattualizzata, è proprio questo quello che le donne vogliono. E lei, Chiara? Cosa? Lei? No, dottoressa, avevo sentito, ma non avevo capito il senso della domanda. Ah, mi scusi. Intendevo, lei che cosa vuole? Beh, però, scusi, se lo sapessi non sarei certo qua, no? Per esempio, la sua prima volta, che ricordo ne ha? Oddio, la mia prima volta. Abbastanza diversa da quella di Anastasia Steele. La mia prima volta, che era la prima volta per me e la prima volta per lui. È un disastro, una cosa proprio brutta, una cosa difficile, cioè non ci siamo riusciti, proprio ci sfuggiva la dinamica della faccenda. Soprattutto io non riuscivo a capire, non mi riuscivo a spiegare come fosse possibile che lui con quell'affare potesse entrare dentro di me. Stavamo insieme da un bel po' di tempo, ci volevamo molto bene e avevamo deciso di farlo il giorno del nostro primo anniversario. Però il sesso premeditato non è mai una buona idea. E quando si arrivò al dunque, per l'emozione, da un lato il locale era chiuso e dall'altro la bandiera era a mezz'asta. Allora ci abbiamo riprovato, nel senso che io mi sono riproposta e lui ha riprovato a smanacciarmi un po' dolcemente, un po' a casaccio, e quindi è riuscito a puntare di nuovo il cannone. Solo che lì è partita la manovra preservativo. Fallo te, mi fa. Io? Vabbè. Chiaramente la prima volta non sono riuscita ad aprire la bustina. La seconda volta l'ho rotto con le unghie. E la terza... Oddio, amore, scusa se rido. Scusami, è che mi sembra stata dal salumiere. Lui si è offeso. Abbiamo discusso e poi litigato. Ma no, è perché te ti sei messa sta biancheria sexy, ma quando mai l'hai portata? Ho capito, volevo essere un po' più arrapante. Sì, ma io mi sento messo sotto pressione. Lui sotto pressione. E io che devo essere ferita irreversibilmente da un salsicciotto ingombrante eppure un po' prepotente? Messo in crisi da Naguère dei cinesi. Scomodissima, tra l'altro. Che mi faceva pure i ciccetti sul sopracoscia, ecco. Oddio, è perché sono grassa. No, Chia, te prego, non diste stronzate. No, è vero, è perché sono grassa, perché stiamo studiando gli esami di maturità e non c'ho tempo di andare in palestra e non ti piace. No, Chia, per favore, non diste stronzate, dai, non le di. Lo sai che tu mi piaci così come sei, un po' burrosa. Come, scusa? Un po' burrosa, però burrosa che mi piace, un po' soffice così. Tu lo sai, no? Lo sai che sei un po' cicciotta. Cosa? Cicciotta. Però cicciotta bella, cicciotta che mi piace. Senti, senti che bello il suono della parola cicciotta. Cicciotta. Ti prego, basta. Cicciotta, ho detto basta. Ciotta, ho detto basta, per favore, ciotta. Ti ho detto basta, per favore, ciotta. Ti ho detto basta, per favore, basta. Cicciotta, ho detto basta, per favore, basta. Ho detto basta, basta, basta, basta. Ma che è? Ma uno sta a fare l'amore, c'è questo cicciotta, cicciotta, cicciotta. Io non voglio essere cicciotta, voglio essere magra. Magrissima voglio essere. Quanto è forte il desiderio di conferme di una donna, eh? Non c'è stagione della vita che tenga. Poraccio, gliel'avrò annichilito il pisello con quei capricci. Comunque, da lì poi, dopo altri soli 5 tentativi, ce l'abbiamo fatta, eh? Abbiamo fatto l'amore. Però che bello conoscersi insieme, scoprire il sesso insieme. Io, comunque, se avessi una figlia femmina, le direi, figlia mia, quando deciderai che sei pronta per fare l'amore e se deciderai che vuoi farlo con un uomo, secondo me la cosa importante, la sola cosa importante è che tu scelga un uomo che lo sappia fa. Uno che sappia dove mettere le mani e soprattutto come metterle. Uno che non si aspetti che tu urli di irrefrenabile godimento al solo su e giù del suo magico pene, ma che si adoperi per il tuo piacere in modo che tu non passi anni a pensare al sesso come a una cosa sopravvalutata. Che ci troverà la gente? Figlia mia, le direi, non è così immediato per una donna raggiungere un orgasmo. Se accanto a te c'è un uomo esperto, navigato, uno che ha avuto un po' di storie lunghe, ecco, magari un gigolò, eh? Può essere che tu scopra prima quanto è bello fa l'amore. Pensate, pensate che rivoluzione sarebbe. Invece di dire alle ragazzine la prima volta lo dovete fare con uno che amate, si potrebbe dir loro la prima volta lo dovete fare con uno bravo, che eviti di citofonare al seminterrato, perché tanto da lì non apre nessuno, che non scambi i capezzoli per foruncoli da schiacciare o i seni per pasta per pizza, che non identifichi nella sculacciata il primo motivo di lubrificazione femminile e che non dia per scontato che tu debba venire. Ma che fantastica cosa sarebbe! Quante donne scoprirebbero prima il proprio piacere, quante imparerebbero a conoscersi prima, un sacco di tabù sarebbero eliminati, tipo la famigerata simulazione dell'orgasmo. Perché si simula l'orgasmo? Lei simula l'orgasmo? E lei, dottoressa? Vada avanti. Ecco. Molte donne non hanno mai provato un orgasmo vaginale, ma solo clitorideo. Ecco, questo accade sia per mancanza di, diciamo così, sensibilità, ma soprattutto per mancanza di pazienza, di empatia. Cioè, l'orgasmo femminile è una roba delicata che va ricercata con attenzione, va accarezzata, va coltivata, come un'amicizia. E anche il punto G, quel famoso punto lì, va cercato, va trovato, bisogna fare dei tentativi, e che diamine, mica si può andare lì a colpo sicuro. Eppure l'orgasmo clitorideo è una questione delicata, ma di delicatezza proprio, mica si può andare lì a tambur battente, a stromba tutto, a martello sull'incudine, a elettroshock. La clitoride ha il quadruplo delle terminazioni nervose rispetto al pene. Il quadruplo! Non è che si può usare come il tasto di avvio del Commodore 64, no? Che poi io pensavo, ma secondo voi, ma le donne che simulano l'orgasmo sono tutte frigide? Secondo me no. Secondo me una donna che simula l'orgasmo sta deducendo il limite oggettivo dell'uomo con cui sta scopando. Per la serie più di questo non può fare, i miei segnali non li sta cogliendo, è meglio che c'è da un taglio, se no stiamo qui fino a domani. Cari uomini, noi lo facciamo per voi, per non farvi sentire sotto pressione. Quindi se io avessi l'occasione di parlare a una platea di uomini, io direi, ragazzi, proviamo a ingegnarci tutti insieme per capire come potremo fare per raggiungere questo obiettivo. Con la lingua, per esempio. Eh? Eh? ci sono un sacco di donne che amano molto questa pratica e ci sono un sacco di uomini che semplicemente si rifiutano di fare questa cosa. Vabbè, guarda, mi sembra di sentire i vostri pensieri. Anche i pompini sono importanti, per carità. E chi ve li tocca, sti pompini? I pompini, quanta dedizione, quanta attenzione, quanto impegno per imparare le tecniche migliori, per aggiornarsi, quanta empatia per capire le differenze tra uomo e uomo, quanta dolcezza, quanta soddisfazione. Lo direi anche a mia figlia, eh? Fare i pompini è un atto d'amore meraviglioso. Però vanno ricambiati, eh? Sì, è vero che ci sono anche un sacco di donne che si tirano indietro. No, non mi fa niente, no, levate, no. Però, uomini, io vi invito a riflettere sul fatto che magari, no, ste vostre lingue, no, sono un po' troppo frettolose, aggressive, pigre, ripetitive. È vero che non c'è una regola, può andare bene tutto, lingua piatta, lingua a punta, davanti, dietro, di lato, sopra, sotto, adagio, forte, adagio con brio, però basta essere delicati. E poi a mia figlia direi: per carità, figlia mia, toccati. Toccati tutte le volte che ti viene in mente, toccati ogni volta che ti va. Esplora il tuo corpo come un territorio sconosciuto, fantastica. Immagina, ma se una non si conosce, se una non conosce il proprio piacere, ma come fa a provare piacere con un altro? Come può guidarlo? Questo le direi di fare delle sessioni masturbatorie settimanali. Il mercoledì e il venerdì, tra il dentista e la palestra, ti devi masturbare. E che è sta demonizzazione? E un figlio maschio invece? Che cosa direi? Beh, forse non ci sarebbe bisogno di incoraggiarlo ulteriormente all'autoerotismo. Però gli direi: figlio mio, il corpo di una donna è una regione sacra e misteriosa. È una foresta incantata. E allora quando tu, come giovane pioniere, ti appresterai a poggiare le tue fondamenta, quando da navigante sperduto nella notte avvisterai l'isola rigogliosa, quando da pellegrino dopo stenti nel deserto arriverai all'oasi, quando starai per suggere da quella sorgente, quando starai per affondare le mani tue forti e audaci nel segreto della vita, almeno lavatele. Stiamo andando un po' fuori tema. Ah, dice? Mi scusi, dottoressa, è che mi sono fatta prendere. No, non si scusi. Piuttosto, rifletta sul perché le vengono in mente certe cose. Quindi, lei avrebbe preferito un uomo esperto per la sua prima volta? Beh, sì. Cioè, no. Cioè, sì, sì. Uno come il protagonista di 50 sfumature? No. E perché? Beh, perché io penso che un rapporto complice vada bene più o meno tutto, però che cavolo, la sottomissione, essere completamente in balia del partner, far decidere tutto a lui, cioè è questo che vuol dire l'emancipazione sessuale, cioè che la curva crescente di autodeterminazione femminile significa in realtà che noi abbiamo desiderio di essere dominate? Cioè è questo, proprio questo? Ma su di lei ha presa? Che cosa? L'idea dell'uomo dominatore? A un livello razionale, no. Eccoci. E a quale livello ha presa? Non saprei, è un livello che percepisco in me, però non so definire e lo allontano. Tipo un cliché. Un cliché? Sì, ci penso spesso ai cliché. A che donne siamo oggi, cioè quelle che vogliamo essere o quelle che milioni di anni di impulsi culturali, di stereotipi e di costellazioni familiari hanno creato. Cioè, che cosa sono disposte a fare le donne oggi per sentirsi donne, per sentirsi belle, per se stesse e per i loro uomini? E io? Che cosa sono disposta a fare? Scommetto che prima che uscisse la pubblicità del Bifidus Essensis, non ci si sentiva poi così gonfie. Invece ora il gonfiore è una piaga dell'umanità. Non essere più gonfia è diventato un obiettivo della vita. Prima di tutto, amore, lavoro, carriera, c'è che non te devi sentire gonfia. Che semplicemente vuol dire che devi fare la cacca una volta al giorno, come facevano l'antichi, Certo, poi ci sono le stitiche, gli stitici, però in generale se tu mangi bene, al limite col confetto falqui, la cacca la fai, che cavolo, la cacca è uno dei piaceri della vita, se ti rilassi ti viene, se non ti viene vai dal dottore, ma è inutile che dai 1,50 € alla Danone, perché come la Marcuzzi non ci diventi. Quindi la donna del 2016 è sicuramente sgonfia. La donna del 2016 è altresì giovane, è molto giovane la donna del 2016, è giovane anche le mamme, no? Quelle delle pubblicità, quelle avranno al massimo 33-34 anni, certo siamo pieni, no? Dei trentenni con tre figli nel nostro paese, ma non è tanto che tu devi essere giovane, tu ti devi sentire giovane, devi arginare la possibilità che i segni del tempo compaiano prima del previsto. E se tu vedi una ruga, una sola, non importa quanto tu sia una donna intelligente, colta, razionale, se tu vedi quella ruga tu impazzisci, c'hai una cazzo di crisi isterica, cominci a fare delle cose inutili tipo te gratti la pelle per vedere se è un grasso, se ne va, e se scopri che la ruga è d'espressione magari dovuta al sorriso, valuti seriamente la possibilità di non sorridere mai più. Poi passi allo scandaglio dei capelli, no? Con la stessa tranquillità di una che si è persa la lente a contatto mentre sta a guidare sull'Ostiense, e se ne trovi uno bianco ti viene voglia di suicidarti. Allora fai per strapparlo quando no! Una voce dalla tua infanzia: no! Chiaruccia nonna! Tu non li ha tirato capelli young? Perché si tuo tira? Chi le hai scenati set? Ma che è? Ma che terrorismo psicologico è? Perché? Perché i capelli sono un altro tratto distintivo della donna del 2016. La donna del 2016 ha i capelli sani, che splendono. E inoltre la donna del 2016 non ha peli. Fa schifo. È peccato mortale. Ogni pelo andrà distrutto. Ogni qualvolta si ripresenti, non importa che sia bianco, rosso, giallo, verde, va eradicato. E allora stra la mezza gamba, 10 euro, e stra la coscia, altri 10 euro, e stra le ascelle, 8 euro, e pim pim pim pim pim pim, pim le sopracciglia, 5 euro, e stra i baffetti, 3 euro, perché noi abbiamo i baffetti, e poi stra linguine totale, 12 euro, che c'è quella che sta là che te ravana, e tu soffri e soffri, e poi stra glutei, schiena, pancia, braccia, altre 25 euro, e la devi fermare perché quella ti cambierebbe pure l'attaccatura dei capelli. Fanno quasi 100 euro di dolore e bellezza al mese. Ma vuoi mettere quanto sei liscia? Per 8 giorni. Inoltre, la donna del 2016 naturalmente è leggera e magra. Ma cara, ma il grasso nel 2016? Ma non se lo puoi avere? Ma guarda, il radar non lo deve trovare sul tuo corpo, il grasso, tesoro. Perché guarda, te lo spiego io come funziona. Cioè, se sei grassa, la tua vita è finita. Cioè, non ti si aprirà neanche una porta. Rimarrai sola, senza neanche un uomo. A meno che tu non lo voglia grasso, ciccione come te. Così insieme, grassi e schifosi, vi potete annasfonare quello che volete. Non essere grassa è un dovere, verso te stessa, verso il tuo corpo, verso il tuo paese. E allora dieta ferrea, niente più zuccheri, guai. Che cos'è quella? Questa è una nespola. No, sì, è una nespola, ma è frutta. No, d'ora in poi niente più zuccheri, niente più carboidrati, e poi basta con ste proteine animali. Ma poveri animali, ma che t'hanno fatto? D'ora in poi solo Satan, hamburger di Satan, mozzarella di Satan, Satan di Satan. Ma fa schifo il Satan, ma fa bene. E poi allenamento durissimo, zumba, box, crossfit, addominali a farfalla, perché la donna del 2016 è sensuale in ogni occasione. Mentre guida, mentre è al supermercato, mentre lavora, lei ha sempre quest'aura di irresistibile sensualità. Mi dia un netto di stracchino a di Satan, naturalmente. Oh, dottore, mi è saltata un'otturazione, è saltata via, proprio saltata via. Ehi, non hai messo la freccia, birbante? Cosicché è tutto un po' ridicolo, no? la sensualità a tutti i costi di una donna sempre giovane, magra, sgonfia, con i capelli sani. La sensualità è una scusa, è un cliché, che tristezza. E gli uomini, secondo me, di questa roba non ci contano, non gliene frega niente. Lei ritiene di conoscere gli uomini? Ma gli uomini, ne conosco alcuni. Conosco alcuni uomini. Quanti di preciso? Ma chi è lei, la buon costume, scusi? Ah, ma via, Chiara, glielo chiedo per avere un quadro. E intendevo anche gli amici, i conoscenti. Ma guardi, quello che so degli uomini è che anche loro hanno i loro problemi. Cioè, il più delle volte gli uomini sono fragili, sono insicuri. E succede che tu la verità vera a un uomo non gliela puoi mica dire. Perché corri il rischio che quello si sgretoli davanti ai tuoi occhi. Perché tu hai scoperto tutta una serie di iceberg di fragilità nascoste, no? E io guardi che ho attraversato tutte le fasi, tutte. Tipo amore passionale, viviamo appiccicati? Ce l'ho. Ci lasciamo però poi ci sentiamo lo stesso? Ce l'ho. Vado a vivere in una città lontana solo per lui? Ce l'ho. Guardargli il telefono? Naturalmente ce l'ho. Negare di averlo fatto? Che glielo dico a fa. Ricevere una proposta di matrimonio con tanto di inginocchiamento in mezzo alla gente, anello con diamante? Ce l'ho. 2 volte. Ricevere come cadeau un pacco di vestiti che lui mi ha regalato ma che io ho lasciato da lui, però tagliati in 2 con le forbici tipo avvertimento mafioso? Ce l'ho. Subire uno stalking? Ce l'ho. Diventare una stalker? Naturalmente ce l'ho. Ci lasciamo, non ci sentiamo, però se ci vediamo finiamo a letto insieme tra grandi sospiri e patemi d'animo? Ce l'ho. Ci lasciamo, non ci sentiamo e ci vediamo per mesi pur abitando nello stesso isolato e frequentando i soliti 4 stronzi? Ce l'ho. E dopo esserci evitati per mesi, aver frequentato i soliti 4 stronzi, ci incontriamo per caso in mezzo alla strada e ci abbracciamo per mezz'ora senza dire niente ma piangendo entrambi? Ce l'ho. Cancellare tutti i suoi messaggi e poi piangere per averlo fatto? Ce l'ho. Passare l'estate con lui e suo figlio, naturalmente fatto con un'altra, e diventare una specie di mamma ad interim ed esserne anche contenta? Ce l'ho. Venire alle mani e fargli una cifra male, chi se lo sarebbe mai aspettato? Ce l'ho. Ci lasciamo, anzi lui mi lascia, io soffro come un cane e torna dopo anni dicendo che si è imparato a memoria la mia lettera d'addio e me la recita? Ce l'ho. Comprare un divano da 2.000 euro per il nido d'amore e poi scappare con un altro lasciando fidanzato, nido d'amore ma soprattutto divano, mortacci mia, 2.000 euro? Stiamo andando di nuovo fuori tema. Dice, eh? Secondo lei tutte queste fasi a che cosa si devono? Beh, alla difficoltà di comunicare, forse. E secondo lei questa difficoltà di comunicare da che cosa dipende? Ah, da entrambi, sicuramente. Cioè? Perché è sempre come se ci fosse una distanza, un rumore. Definiamo meglio. È come se uno dei due fosse su una torre. Chi dei due? Bah, io o il lui di turno, non è importante. La torre è interessante. Proviamo a ragionarci. Come mai le è venuta in mente? Perché io insegno teatro, no? Ai bambini molto piccoli anche, e faccio fare loro un gioco che chiamo Principesse e Cavalieri. Sono bambine e bambini molto piccoli, hanno tipo dai 3 ai 5 anni, sono dei farfallotti, dei cucciolotti smocciolanti, tutti pieni d'amore, sono proprio da che li pigli, gli fa le pernacchie sulle guance, tutto che... Sì, scusi, devono essere gli ormoni dei 30 anni. Comunque, dicevo, io faccio fare loro questo gioco. Metto le bambine in piedi su una sedia. La sedia è la torre. E le bambine sono state rinchiuse lì da un drago cattivo. E sono molto seccate perché avevano un sacco di cose da fare e non le possono fare più lì in quella torre chiuse. Faccio scegliere alle bambine il colore del vestito. E ai principi, che devono andare a salvarle, faccio scegliere il colore del cavallo. E pensi che nessuno mai dice bianco. I principi sono molto valorosi, combattono e cavalcano con impeto, con talmente tanto impeto che cadono per terra, cominciano a piangere, si trascinano gli altri, vabbè. Allora i principi promettono alle principesse che cattureranno il drago, non che lo uccideranno, perché io non istigo alla violenza neanche sui draghi immaginari. E poi, alla fine di tutto, chiedono le principesse. Principessa, quando tutto questo sarà finito, vorrete sposarmi? E le principesse rispondono: beh, non lo so, devo chiedere a mamma e papà. La prima volta che ho fatto questo gioco l'ho completamente improvvisato, cioè mi è venuto dal niente. Io sono una donna indipendente. Sono cresciuta pensando agli uomini e alle donne come individui perfettamente equivalenti. Eppure, sulla torre, ci ho messo le bambine. Mi è venuto automatico. Perché? Mi sono molto arrabbiata con me stessa quando è successa questa cosa. Talmente arrabbiata che dal giorno successivo ho fatto a turno. Cioè, una volta ci mettevo le principesse sulla torre e una volta ci mettevo i principi, col loro sommo disappunto. E le principesse, quando dovevano salvare i principi, le chiamo principesse guerriere, che hanno la spada, no? E qualche bambina è contenta, qualcun'altra è un po' perplessa. Per esempio Sara, una frugoletta africana di 4 anni, alta come una gnappa, mi tira per la maglietta e mi fa: maestra, ma le principesse non ce l'hanno la spada. Allora io la guardo e le dico: Sara, se una principessa vuole avere una spada, prende una spada. Se non vuole averla, la lascia lì. Allora lei mi guarda, ci pensa, poi mette la mano al fianco e sfodera la spada immaginaria con un urlo selvaggio. Yeah! Ma aveva chiesto il permesso per capire se potesse essere giusto assecondare un suo istinto. Cioè, una bambina di 4 anni, tra l'altro africana, quindi un patrimonio culturale un po' diverso, trova già strano che una principessa abbia la spada. Fa già parte del suo bagaglio di conoscenze, del suo modo di categorizzare il mondo. Per riconoscersi diversa dai maschietti, si attribuisce degli accessori e altri ne attribuisce ai maschi. Le principesse non hanno la spada. Le principesse hanno un bel vestito. La principessa aspetta che un bel principe la venga a salvare. Un principe bello, forte, indomito e dolce. La principessa è piccola, è fragile, è ben educata e ben vestita. È sgonfia. È contenta di quello che ha, ma aspetta l'amore, perché l'unica cosa che potrebbe davvero renderla infelice è una vita senza amore. E non basta un amore qualsiasi, ci vuole l'amore di un principe, perché l'amore di un contadino o di un'altra principessa non sarebbero giusti. Ora magari questa principessa cresce, no? Diventa una ragazza forte, magari impara un lavoro oppure studia, si sente realizzata, e quelle storie, quelle della sua infanzia, quasi se le ha dimenticate. Solo ogni tanto c'è un pizzicotto al centro del cuore, piccolo piccolo, che le ricorda che forse non è una principessa all'altezza, non è abbastanza principessa. E allora tutto quello che ha letto, ascoltato, visto negli anni le ritorna fuori quando meno se l'aspetta, in profumeria il più delle volte, oppure quando deve decidere che cosa indossare a un primo appuntamento, quando è sotto le lenzuola, quando dopo un primo incontro sessuale occasionale, ancora prima di domandarsi se sia piaciuto a lei, già si domanda: oddio, che ho sbagliato, perché non mi richiama? O quando asseconda un compagno violento. C'è una voce al centro del suo cervello che le dice: ma sarai abbastanza? Abbastanza? Abbastanza rispetto a che? E infatti... Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a che? Rispetto a me? Rispetto a lei! Rispetto a me? Oddio! E che vuol dire?